Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Bentornati e tornate a Möbius, non perdiamo tempo che abbiamo tante cose da raccontarvi, subito i titoli di questa puntata. Strane notizie dal mondo della ricerca. La colorazione delle piume degli uccelli si sviluppa come la schiuma della birra ed è nato il primo programma che impara a fare lo scienziato. Esiste un problema di alimentazione nel futuro della nostra specie? Il direttore generale di Bioversity International risponde affermativamente e suggerisce alcune soluzioni. La ricerca scientifica può contribuire all'industria vinicola italiana, che la usa ancora poco. È nata una stazione sperimentale sostenibile impegnata a creare questo contatto. I nostri sensi ci ingannano. Crediamo di percepire molto di più di quanto effettivamente ci arriva dalla realtà circostante. Le città possono modificare radicalmente il clima di un'intera regione. Ci spiega come è possibile una nuova scienza, la microclimatologia delle metropoli. Il grande fratello dei volatili, la conta delle lumachine e altre curiose pagine di scienza in un viaggio nel web. Le donne di Los Alamos, le ragazze di ENIAC, il primo calcolatore e quelle che classificarono 500.000 stelle, le scienziate presenti nei grandi progetti di ricerca. Vado subito da Paolo Rebusco, che è lontano. Ciao Paola. Ciao, buongiorno. Tu dici giustamente buongiorno perché sei a 9 ore di distanza. Dove sei esattamente? Sono a Stanford, ancora in California. Vicinissimo a San Francisco. Sì, meno di un'ora da San Francisco. Allora Paola, cosa hai preparato? Sempre ti sento via Skype. Piume, colori delle piume degli uccelli, no? Esatto, il colore del piumaggio degli uccelli. Uno studio bellissimo, interdisciplinare, tra biologi e fisici, sul un colore specifico, il blu elettrico, del piumaggio di alcuni uccelli come la ghiandaia azzurra americana. Va bene, cosa c'è da dire? C'è da dire che la maggior parte dei colori in natura è dato dai pigmenti. Invece questo blu elettrico è dato da delle nanostrutture a forma di bolle, un po' come la schiuma della birra o una spugna, una struttura a bolle che in base alla forma e alla dimensione dà dei colori diversi con grandissima accuratezza. Ecco, scusa, però quelle, le bolle della birra o dello champagne, sono belle ma fragili, se ne vanno. Qui invece abbiamo dei colori che restano. Infatti, cioè chiaramente gli ingredienti di base sono diversi e il meccanismo fisico di formazione che è lo stesso. Quello che succede ad esempio nel caso della birra, noi abbiamo le bollicine di anidride carbonica che sono intrappolate nel liquido e cercano di scappare e questo porta alla formazione della schiuma. Nel caso del piumaggio abbiamo delle bollicine di acqua in una zuppa di proteine, che è l'equivalente della birra. Questo si trova in tutto all'interno delle cellule e le bollicine di acqua cercano di scappare ed evaporano. Alla fine quello che rimane è la struttura a bolle, ma sono delle bolle solide, sono costituite dalle proteine stesse, dal beta carotene. Quindi una struttura decisamente più solida. Senti, questo studio va bene, è interessante di per sé, ma l'hanno fatto anche perché pensano a qualche applicazione cromatica industriale? Certamente sì, stanno cercando di produrre una nuova generazione di materiali ottici costruiti proprio con questo metodo, con questa separazione di fasi. Senti, mi dicevi prima dell'intervista che invece è in circolazione un software che vuol fare lo scienziato. È un'altra notizia. Sì. Che cosa vuol dire? È un nuovo programma, un algoritmo che è in grado di scoprire leggi fisiche fondamentali. E come fa? Allora, c'è una prima fase in cui l'oggetto sotto osservazione, in questo caso dei pendoli, sono catturati tramite il processo di motion capture. Spieghiamolo un attimo, allora è lo stesso che probabilmente tanti ascoltatori e ascoltatrici hanno visto e quando come si fa nei cartoni animati oggi, no? Si mettono tanti sensori sulla faccia per esempio di un attore anche famoso, lui recita e poi quei movimenti espressivi della faccia si trasportano sulla faccia di un orso buffo che è il personaggio del cartone animato. Qui che cosa si fa? Si mettono questi sensori per esempio su un pendolo in movimento? Sì, esattamente. Esattamente la stessa tecnica che hai detto bene, si usa nelle animazioni 3D. In questo caso l'oggetto da studiare è un pendolo e mettono quindi dei sensori su questi pendoli e quindi hanno praticamente tutta l'informazione sul movimento. Su tutte le posizioni del pendolo nel tempo. Va bene, questi sono dei dati. Ecco, questi sono dei dati che vengono passati a un computer. Il computer non sa nulla di fisica, non sa nulla di geometria, ma ha delle espressioni matematiche, delle regole di base, più o meno uguale. Ha proprio come dire della matematica grezza. E che cosa fa con questo? È come il computer ha tutto un suo vocabolario e le regole di un linguaggio, in questo caso la matematica. E quello che l'algoritmo fa, analizza i dati da un lato e dall'altro prova a riottenerli combinando questi pezzi di espressioni matematiche, cioè li mette insieme a caso, veramente, finché non trova gli elementi che non cambiano da un'osservazione all'altra, finché non Perfetto. trova queste invarianti, queste quantità fondamentali e delle equazioni che riproducono i dati in maniera migliore. In qualche modo fa la stessa cosa che fa un ricercatore quando con dei dati deve riuscire a tirar fuori una formula che rappresenti un fenomeno. Il In soft. qualche modo sì, però ecco, il computer procede veramente in maniera casuale, cercando di ottimizzare, però il fatto è che in poche ore questo algoritmo è in grado di svolgere il lavoro che agli uomini Richiederebbe un sacco di tempo. richiederebbe secoli. Ha riscoperto, ad esempio, tutte le leggi di Newton, di Keplero e così via, semplicemente nel giro di poche ore, partendo da una serie di osservazioni della realtà tramite il motion capture. Poi, alla fine, servono comunque gli umani che interpretano queste equazioni. Beh, però mi sembra una roba abbastanza stramba, Sì, curiosa. è una cosa stramba, è una cosa straordinaria. L'idea è anche di utilizzarlo per scoprire nuove leggi fondamentali, soprattutto in ambito biologico, dove ci sono dei sistemi più complessi. Paola, ti saluto per questa volta. Ciao. Passo e chiudo. Ciao. Andiamo da Barbara Gallavotti che ci parla. Beh, insomma, il tema è questo: ci sono strategie molto efficaci per gestire in modo diverso le fonti, tante dei nostri alimenti. Sentiamo appunto questo servizio di Barbara Gallavotti. Si è inaugurata al Bioparco di Roma la mostra Regali di Natura, allestita dal Bioparco stesso in collaborazione con Biodiversity International. Ancora una volta è un'occasione per parlare di un tema importante, cioè come produrre più cibo o cibo migliore. Certo, per renderlo disponibile in primo luogo là dove manca, ma anche per migliorare la produzione nei paesi ricchi, come da noi. Ne parliamo con Emil Frison, direttore generale di Biodiversity International. Buonasera. Buonasera. Dicevamo biodiversità per produrre cibo più abbondante e migliore, ma come? Ma tradizionalmente il miglioramento si è fatto con degli incroci tra diverse varietà con delle caratteristiche complementari e utili per avere come risultato delle varietà con reso più importante, con resistenza alle malattie, eccetera. E questo è stato sempre fatto anche dagli agricoltori dai secoli passati. Quindi si tratta di utilizzare tecniche tradizionali, niente biotecnologie? E in molti casi non è necessario avere ricorso alle biotecnologie. Diverse caratteristiche esistono tra le varietà esistenti. Per esempio, il Golden Rice, che è questo riso trasformato per avere un contenuto di provitamine A, abbiamo fatto delle ricerche e abbiamo trovato delle varietà che naturalmente che hanno un contenuto superiore di provitamine A di quelle del riso trasformato. Il riso trasformato, il Golden Rice, ricordiamo, è stato messo a punto per sopperire alle carenze di vitamina A nei paesi dove c'è questa carenza alimentare ed è stato sempre presentato come il grosso successo delle biotecnologie al servizio dei bisognosi. Sì, questo mi sembra importante di sapere che aver ricorso alla diversità esistente è una strategia importante che non dobbiamo dimenticare. Ecco, ma ci sono dei casi in cui invece le biotecnologie sono necessarie? Certo, vorrei dare un esempio. Il banano. Ci sono infatti più di 1.000 varietà di banane al mondo, ma il banano è una coltura che è sterile, non producono di semi e non è possibile fare degli incroci tra diverse varietà, o almeno è molto difficile. Abbiamo l'esempio in Africa, dove il banano è l'alimento di base. lì ci sono delle nuove malattie che sono arrivate e che fanno una distruzione importante di queste colture, e lì la soluzione, l'unica soluzione possibile è di utilizzare la biotecnologia per introdurre un carattere di resistenza, ma anche questo carattere può provenire di varietà o di specie selvatiche di banano. Così si trasferirà un carattere della stessa specie, di una specie selvatica, alla specie coltivata. Ma in questo caso è l'unico modo per migliorare la resistenza a queste malattie. Lei diceva che addirittura c'è una parola particolare per definire banana in questi paesi, che indica quanto è importante per l'alimentazione locale. In Uganda, per esempio, il nome per il cibo è matoke, e il stesso nome è per banano, e questo vuol dire tutto, che il cibo è banano. La gran parte degli sforzi per migliorare la resa agricola si sono concentrati sempre sulla produzione di colture molto omogenee, composte quindi da piantine che sono geneticamente identiche fra loro, e questo perché colture omogenee in genere sono più facili da gestire. Però non è questa la strategia che viene seguita nelle colture tradizionali? Ma tradizionalmente gli agricoltori hanno utilizzato la diversità per far fronte al rischio di perdita di raccolta, e questo diviene ancora più importante col cambiamento climatico. Noi sappiamo che nei molti paesi in via di sviluppo bisogna trovare una maniera di intensificazione dell'agricoltura che si basa su una migliore utilizzazione della biodiversità, delle varietà tradizionali. Questo è un'alternativa all'utilizzo di pesticide nelle grandi colture che troviamo qui in Europa, per esempio. Ecco, è poco noto, ma voi siete un po' coloro che hanno il merito di aver riportato la rughetta nei nostri piatti. La rughetta era una pianta che veniva usata poco nell'alimentazione, e recentemente invece è tornata a essere presente anche nella grande distribuzione, grazie anche ai vostri sforzi. Sono tante le piante alimentari che potremmo usare sul nostro territorio e che non usiamo? Certo, abbiamo iniziato con il supporto del governo italiano, un'iniziativa nell'inizio degli anni 90 sulle specie sottoutilizzate del Mediterraneo. Una delle specie che faceva parte di questo progetto era la rughetta, che tradizionalmente veniva raccolta dalle piante selvatiche, e l'abbiamo, con diversi istituti di ricerca in Italia, iniziato il processo di domesticazione, e ora viene coltivato e è disponibile non solamente in Italia ma in tutto il mondo. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo al nostro gioco, pronti? Il quiz. Un quiz un po' diverso dal solito. Attenzione, quale delle seguenti tre definizioni scientifiche non è, ripeto, non è nata dalla letteratura fantascientifica? La prima, ingegneria genetica, ci scriverete genetica. La seconda, gravità zero, 0G, ci scriverete zero. La terza, raggio laser, ci scriverete laser. Come al solito, l'SMS è il 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è La mente matematica di David Ruel, edizioni Dedalo. In collaborazione con IBS.it. I viticoltori italiani sono una realtà importante per la tradizione che rappresentano, certo, ma anche e soprattutto, diciamocelo, come comparto industriale. Hanno bisogno di ricerca scientifica? Sì, vi dice Chiara Albicocco in questo servizio. È nata in Toscana, nelle terre del Chianti, una stazione sperimentale per la viticoltura sostenibile. È un bel esempio di come la ricerca scientifica e la tecnologia possono incontrare l'agricoltura e sviluppare delle strategie per la coltivazione ecologicamente avanzate. Il fondatore e il coordinatore di questa stazione sperimentale è un agronomo e si chiama Ruggero Mazzilli. È nostro ospite questa sera. Benvenuto Mazzilli. Grazie a tutti. Dunque, ci racconti qual è la missione di questa stazione sperimentale che tende a creare questo ponte tra la ricerca e la viticoltura? Lei conosce il proverbio tra il dire e il fare bisogna sapersi organizzare. Sì, io conoscevo tra il dire e il fare, c'è di mezzo il mare, ma va bene lo stesso. Vabbè, noi vediamo come spesso tra il mondo della ricerca e il mondo del lavoro non ci sia un colloquio continuo, concreto, per cui ci siamo posti appunto come obiettivo studiare, sperimentare tutto quanto può essere utile per una viticoltura sostenibile sotto tutti i punti di vista, non solo ecologico ma anche economico, e trasferirlo direttamente nelle aziende con prove concrete che valgono sempre molto più dei fatti. Quindi si può dire che fate un po' da cavia, tra virgolette, cioè mettete a punto e testate sui vostri vigneti le tecnologie che nascono nei centri di ricerca? Sì, sicuramente siamo ufficialmente, lavoriamo con le università, con i centri di ricerca tramite convenzioni che abbiamo stipulato, abbiamo fatto anche da coordinatori per delle tesi di laurea e soprattutto cerchiamo di stimolare queste ricerche sulla base di quanto recepiamo da parte delle aziende, da parte dei produttori. Ci fa qualche esempio di quali sono queste tecnologie che finora avete messo in campo, che state sperimentando per realizzare questa viticoltura biologica a basso impatto? Beh, quest'anno abbiamo una prova molto interessante che vede l'uso congiunto di tre punti, di tre soluzioni tecnologicamente molto avanzate, di cui una riguarda il monitoraggio dei principali elementi climatici tramite sensori wireless, cioè distribuiti direttamente nel filare in numero elevato, in modo da poterli poi trasmettere a una centralina e rilevare direttamente via computer. Associato a questo rilievo puntuale, utilizziamo un'iroratrice a tunnel che permette di ridurre in modo elevatissimo la deriva, quindi fare trattamenti quasi pennellati sulla vegetazione in modo da poter ridurre anche i dosaggi dei trattamenti, e sempre in questa prova utilizziamo dei prodotti completamente naturali, cioè oltre a usare principi attivi naturali usiamo anche i solventi naturali, quindi solo bentonite, non usiamo coadiuvanti e solubilizzanti di altro genere. Voi, essendo in contatto, come diceva prima, con le università e gli enti di ricerca, avete anche un ruolo importante sulla formazione, cioè è importante che comunque il singolo produttore, il coltivatore, capisca che non deve guardare al proprio orticello ma comincia a pensare un pochino più in là all'ambiente anche. Sì, questo è importante perché molte volte le aziende sono sovrastate da quelli che sono i problemi quotidiani da risolvere e cercano magari soluzioni veloci. Noi siamo convinti che per una viticoltura sostenibile le migliori soluzioni sono quelle durature. Abbiamo visto come i veleni chimici risolvono un problema oggi, ne creano 10 per domani, mentre con questo metodo bio cerchiamo di superare quelle che sono le difficoltà dell'oggi per avere delle soluzioni a lungo termine domani. Questo tipo di agricoltura così biologica, sostenibile e così anche all'avanguardia tecnologicamente è anche più costosa, cioè il prodotto finale, nel nostro caso il vino, raggiunge prezzi molto più alti? No, assolutamente no. In viticoltura noi siamo riusciti a chiudere questo triangolo qualità costi bio. Abbiamo visto come anche scardinando quelle che erano alcune credenze, alcune tradizioni sulla gestione del vigneto, siamo riusciti appunto a rendere le piante meno suscettibili. I prodotti naturali indubbiamente non hanno un'efficacia pari a quella di veleni chimici che sterminano tutti, ma proprio per questo sono meno selettivi e creano la possibilità, permettono di utilizzare l'ambiente proprio come serbatoio e come cuscinetto di difesa per le piante, che automaticamente, tramite anche una gestione agronomica fondamentalmente diversa, una concimazione diversa, una gestione del suolo completamente diversa, diventano meno suscettibili e quindi diminuiscono i costi. E la qualità aumenta, perché la vite di per sé è una pianta lianosa, una pianta rampicante. Se noi riusciamo a interrompere questa sua propensione alla vegetazione, riusciamo a portarla verso l'accumulo, quindi a ridurre le necessità di lavoro e aumentare la qualità. Ottimizzare. Ecco, alcuni viticoltori, come accade anche in altri settori, sceglieranno la coltivazione tradizionale, intendo dire proprio come la facevano i loro nonni e i loro avi. Ecco, non sempre tutto ciò che è legato alla tradizione è necessariamente buono, immagino. Cioè, bisogna imparare anche ad avere un pizzico di fiducia in più nelle tecnologie? Sicuramente, soprattutto quelle tecnologie che ci permettono di fare conoscenza dell'ambiente sia a livello di suoli che a livello di andamenti climatici, e per non dire poi quelle che sono le caratteristiche delle piante e dei patogeni. Una tecnologia oggi all'avanguardia che può essere usata nel bene e nel male è l'analisi molecolare. Noi cerchiamo di usarla nel bene, nel senso che grazie all'analisi molecolare molti ricercatori sono riusciti a definire meglio quelli che sono i parametri epidemiologici delle malattie, e questo ci permette di utilizzare i modelli per poter appunto intervenire solo quando realmente è necessario. Va bene Mazzilli, se qualcuno desidera avere qualche informazione in più sulla vostra stazione sperimentale, trova qualche informazione in rete? Sì, abbiamo due siti, www.spevis.it. Spevis, ripetiamolo, S-P-E, V di Verona, I-S di Savona, .it. Okay. .it e www.viticolturasostenibile.it. Allora buon lavoro e buona serata. Grazie anche a lei. Ho intervistato Massimo Turatto, psicologo, ricercatore presso il CIMEC a Rovereto. Il CIMEC è un nuovo centro, sta nascendo in questi mesi, sarà operativo entro l'anno, è una struttura con grandi prospettive, interamente dedicata alle conoscenze dei processi mentali, ma anche impegnata in attività di cura. Bene, con Massimo Turatto ho parlato di limiti della nostra mente, del nostro cervello. È vero che lo descriviamo sempre come una macchina meravigliosa, però mica potrà fare tutto, no? Questo gli ho chiesto. Sicuramente il cervello, per quanto sia una macchina estremamente efficiente e potente, è una macchina che, come tutte le macchine, ha dei limiti. Ora, il problema è se ha dei limiti, come si superano questi limiti e quando vediamo questi limiti. La psicologia si interessa da sempre di capire quali sono i limiti, come poterli misurare e come eventualmente il cervello faccia, quale soluzione abbia trovato all'evoluzione, se vogliamo, per superare il limite legato al fatto che tutto quello che arriva dai nostri organi di senso contemporaneamente noi non possiamo percepire. Qui stiamo parlando di limiti che si esprimono in ogni momento, in qualunque funzione, in qualunque attività. Basta pensare banalmente, provate a parlare con due persone contemporaneamente e vi accorgete che non è possibile. O selezionate quello che dice una persona o selezionate quello che dice un'altra persona. Come fa il cervello quindi a superare questi limiti? La soluzione che ha trovato è quella di porre un filtro. Questo filtro è il concetto di attenzione. Cioè, non potendo elaborare tutto, si pone il problema di selezionare l'informazione in ingresso. Quindi una parte degli studi della psicologia cognitiva si è rivolta a capire i meccanismi attentivi. Che cosa determina quello a cui prestiamo attenzione? Ci sono delle cose nell'ambiente che catturano la nostra attenzione, oppure noi possiamo prestare attenzione alle cose in base alla nostra volontà. Però noi abbiamo la sensazione di essere assolutamente attenti a tutto quello che c'è intorno, invece ce la raccontiamo un po' solo. Cerchiamo di essere ancora più precisi, non stiamo parlando del fatto che con una mano messa quasi di lato alle tempie la vediamo male. Qui stiamo parlando di visioni che abbiamo proprio davanti, certo, molto precise, è lì che non è vero che vediamo tutto. Assolutamente, sarebbe banale dire che io non vedo qualcosa che sta dietro di me perché non rientra nel mio campo visivo, ma non è solo questo, nel senso che invece si è dimostrato che io posso non vedere consapevolmente cose che stanno di fronte ai miei occhi. Questi fenomeni che si osservano nella vita di tutti i giorni in realtà sono stati studiati e riprodotti anche in laboratorio. C'è un fenomeno che è stato studiato negli ultimi 10 anni nella psicologia che si chiama il fenomeno della change blindness, cioè della cecità al cambiamento, attraverso il quale si è dimostrato che presentando ripetutamente delle scene sul monitor di un computer e introducendo cambiamenti clamorosi nelle scene, tipo appunto un motore di un aeroplano che appare e scompare continuamente, e invitando le persone a dire che cosa cambia nella scena, le persone hanno delle grossissime difficoltà a vedere questo cambiamento. Tale per cui ci possono mettere anche un minuto per vedere un cambiamento di questo tipo, oppure non vedono un edificio che appare e scompare. Ora, come si spiega tutto questo? Si spiega con il fatto che tutte le cose che sono nel nostro campo visivo non sono analizzate nello stesso modo dal cervello, proprio per limiti di cui parlavamo prima. Cioè c'è qualcosa di prevalente nella scena che ci fa assolutamente dimenticare. Dovendo selezionare, quello cui prestiamo attenzione entra a far parte della nostra coscienza. Cioè quello a cui non prestiamo attenzione ci sembra di vederlo, ma non è vero. Il che vuol dire però che allora questa nostra macchina ha anche dei processi di sovraccarico. Beh, l'attenzione serve proprio per evitare dei processi di sovraccarico ed è facilmente dimostrabile anche in questo caso che se io chiedo a una persona di cercare una lettera T in mezzo a delle lettere L, compito che si è dimostrato nella letteratura scientifica essere una cosa abbastanza difficile, Bene, più lettera L io metto nel display di ricerca, più la persona ci impiega a trovare la lettera T. Quindi vuol dire che più io sovraccarico il sistema, più difficoltà ha il cervello a eseguire il compito. Qui l'immagine sarà di L e T ruotate in vari modi, disposte a caso nella scena, certo. Okay. E più aumentano le L che più aumentano i distrattori, esatto. Più il cervello impiega tempo a trovare la lettera target. Se da una parte può sembrare un limite non vedere tutto, invece, siccome non possiamo vedere tutto fisicamente, questa capacità di selezione diventa fondamentale per ragioni proprio di sopravvivenza. Assolutamente. L'interesse è proprio quello di capire quali meccanismi controllino l'attenzione. Ora, si sa che l'attenzione è controllata sostanzialmente da due tipi di meccanismi. Meccanismi volontari, cioè della serie io posso decidere di prestare attenzione a qualcosa che sto vedendo, che ne so, in una scena di un film, ma contemporaneamente se si apre improvvisamente la porta nella stanza dove io sto seguendo il film, tipicamente quello che accade è che io mi giro e mi oriento, presto attenzione allo stimolo improvviso che ha preso la mia attenzione. Questo meccanismo, quindi questo riflesso di orientamento, quindi l'attenzione automatica, è estremamente importante ed ha un valore evolutivo. Basti pensare a un animale nella savana che sta mangiando e quindi sta sicuramente prestando attenzione al cibo o sta cercando proprio il cibo per potersi nutrire, ma contemporaneamente qualcosa si muove tra il fogliame oppure sente un suono. Ecco, esiste un sistema automatico che interrompe l'attività di ricerca volontaria del cibo per farlo orientare verso il potenziale pericolo. E questo cambiamento è molto rapido. Sì, anche questo ovviamente è stato dimostrato sperimentalmente. I tempi per orientare la nostra attenzione volontariamente sono più lunghi di quelli attraverso i quali l'attenzione viene orientata automaticamente. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Le grandi aree metropolitane hanno un loro clima. Nelle previsioni meteorologiche bisognerebbe tenerne conto. Lo vediamo, no? Piove intorno e non piove in città, per esempio. Di microclima metropolitano vi parla ora Maurizio Menis. Sempre più gente vive in città. È un fenomeno ormai in atto da secoli che sembra non volersi arrestare. Di recente è stata superata la soglia simbolica del 50%. Insomma, più di metà dell'intera umanità è ormai concentrata nelle piccole grandi aree urbane. Le città crescono, di conseguenza, sia in superficie che in altezza. Ebbene, ciò che sta emergendo in maniera sempre più chiara è che questi conglomerati di cemento e asfalto, insieme alle varie attività che vi si svolgono, hanno un forte impatto sul clima. Non solo all'interno delle città, ma anche in tutta la regione circostante. Insomma, noi tutti abbiamo sperimentato la spiacevole sensazione di attraversare un parcheggio arroventato dal sole e magari ci siamo anche domandati come si vive nei palazzi lì intorno. Ma c'è decisamente di più. E infatti è nata una disciplina scientifica che si occupa specificamente del rapporto tra città e clima e di come smussarne le spigolosità. È la microclimatologia metropolitana. Ne parliamo con Teodoro Georgiadis, ricercatore dell'Istituto IBIMET CNR di Bologna. Buonasera Georgiadis. Buonasera. Dunque Georgiadis, c'è un'espressione che forse prima di altre è entrata un po' nel vocabolario dei non addetti ai lavori relativamente appunto al rapporto tra clima e città ed è isola di calore, riferendosi al fatto che in città insomma fa più caldo. Io partirei da qui chiedendole anzitutto quanto più caldo? Questo dipende dalla città, ovvero quella che mi ha fatto una domanda difficile, nel senso che è la struttura urbanistica, l'architettura stessa della città che determina il fenomeno dell'isola di calore. Se mi permette una piccola definizione di questa cosiddetta isola di calore, fondamentalmente è la differenza fra la temperatura che si rileva in quella che è la parte centrale della città, intesa come il baricentro del costruito, e la periferia rurale. Quindi questa differenza di temperatura viene definita isola di calore. Che può variare moltissimo e si vede che varia moltissimo perché le misure che vengono condotte dalle reti meteorologiche dimostrano che proprio il tipo di tessitura della città può portare a differenze di qualche grado fino anche a differenze superiori a una decina o alcune misure riportano anche qualche decina di gradi. Una cosa quindi impressionante. Senta, ecco, lei ha parlato di tessitura della città, quindi la struttura del costruito. Facciamo un esempio, edifici alti e edifici bassi. Ecco, appunto, lei dice giustamente edifici alti e bassi, la città si espande in orizzontale. In orizzontale, ma si espande anche in verticale. Certo. Quindi, e questo ha molto a che fare ovviamente con l'identità culturale della stessa città, cioè il modo di lavorare, non di viverla, di sentirla. Quindi succede che all'interno di città costruite, ad esempio, con edifici molto alti, e molto ravvicinati, la radiazione solare che penetra all'interno di questi edifici viene catturata dai materiali e non viene diciamo rimbalzata all'esterno, quella che si dice radiazione in onda corta, la radiazione visibile che può essere retroriflessa, e quindi essendo quasi completamente assorbita porta fondamentalmente a temperature più elevate. Mi faccia fare un esempio: tutti noi abbiamo forse un minimo di familiarità con i pannelli fonoassorbenti, quelli con tutte le piramidi. Sì, ecco, esatto. Quelle forme lì assorbono bene l'energia acustica. Lei mi sta dicendo che in una città in cui ci sono tanti palazzi verticali, questi assorbono più efficacemente, per un gioco di rimbalzi, anche l'energia luminosa, quindi si scaldano di più. Il suo esempio è centratissimo. E tutto questo si trasforma in calore, quello che viene chiamato calore sensibile, che in realtà è il calore percepito. Ecco, si è compreso che anche l'impatto delle città sulle precipitazioni, che in qualche modo era già noto, è però più complesso di quanto non si credesse. Sì, esatto. Diciamo che il nuovo modo di vivere la città in qualche modo altera anche il tipo di emissioni. Oggi si parla molto di particelle piccole, dei famosi PM10, PM2,5, PM1. Bene, da studi recenti si è visto che queste particelle piccole danno luogo a un ritardo nella precipitazione, perché il meccanismo della quiescenza, che porta poi alla formazione della particella che precipiterà, della goccia quindi di pioggia. Quindi la condensazione dell'acqua intorno a questi, che si chiamano appunto nuclei di condensazione. Esattamente. La formazione della particella che precipiterà risulta ritardata e darà luogo a una precipitazione che sarà molto più lontana dalla città rispetto ai tipi di inquinamento precedente che davano luogo a particelle grosse. E quindi anche con un impatto sulla coltivazione agricola, per esempio, nei dintorni. Assolutamente sì, questo è un fenomeno che si può diciamo espandere per molte decine di chilometri, e se si hanno nei dintorni delle coltivazioni agricole di qualità che devono rispettare dei disciplinari, il cambiamento del regime precipitativo può portare a un'alterazione di quelle che sono le procedure classiche del disciplinare che dà la qualità del prodotto. E quindi che cosa si fa? Come si possono mitigare gli effetti più negativi, diciamo, della città sul clima? Guardi, fondamentalmente ci sono due modi per vedere questo tipo di problema. Un modo è considerare il clima in senso globale, e un approccio è quello di pensare che le città occupano in qualche modo qualche percento del territorio, delle terre emerse, e però danno luogo ai 2/3 di emissioni di gas serra. Questo, diciamo, è il pensiero della mitigazione legata ai gas, all'emissione di gas climalteranti, e quindi pensare a ridurre queste emissioni. Quindi la chiave di lettura qui è il global warming, diciamo. Assolutamente, questa è la chiave di lettura del global warming, ed è una chiave di lettura molto accettata, è la chiave di lettura dell'International Panel sui cambiamenti climatici. Un'altra chiave di lettura però può essere questa, che nel giro di pochi decenni praticamente tutta la popolazione mondiale sarà una popolazione urbana, e il nostro orizzonte climatico sarà l'orizzonte della città, e quindi pensare alla mitigazione per aumentare il benessere dell'abitante, dare in fondo come ineluttabile questo processo e vedere di mitigare. Come in questo caso? In questo caso cercando di ribilanciare quei termini di energia, di calore, che abbiamo visto possono essere mal distribuiti. Uno degli esempi più classici può essere la mitigazione tramite gli spazi verdi e la mitigazione tramite un ridisegnare la tessitura architettonica della città, anche con nuovi materiali. Ecco, in questo ci sta anche una nuova visione della città. Oggi la città è un luogo dove la gente si sposta, si sta urbanizzando verso le megalopoli, perché lì c'è un polo di attrazione proprio come fattore di vita. Bisogna ripensare a una città intermedia, probabilmente, e quindi ripensare a costruire una città dando delle ragioni alle persone per muoversi verso un modello di città intermedia e non più verso il fattore unicamente attrattivo della megalopoli. Va bene. Beh, grazie mille Giorgiadis, buon lavoro, insomma, anche perché potrebbe esserci utile il vostro lavoro. Grazie a lei e speriamo che sia utile. Pagine in rete dedicate a temi scientifici, pagine con cose un po' inusuali, difficili da trovare per chi non lo faccia come lavoro. Ve ne parla adesso Chiara Albicocco, e vi dico subito che il link a queste pagine li troverete sul nostro sito in homepage. piante di vari colori, dall'azzurro al viola scuro, passando per l'arancio e il rosso, ci permettono di capire la qualità dell'aria che respiriamo. Se visitate l'home page del nuovo sito www.lamiaaria.it, vi trovate di fronte alla mappa dell'Italia interattiva, cioè cliccabile regione per regione, con le indicazioni dello stato degli inquinanti dispersi nell'aria. Avete la possibilità di scegliere la sostanza nociva che più vi interessa. Potete scegliere il monossido di carbonio, il biossido di azoto, l'ozono e anche le polveri sottili. E con un solo clic potrete viaggiare lungo le Alpi e gli Appennini, vedere in tempo reale se a Palermo la qualità dell'aria è eccellente o insalubre, oppure se a Trieste la bora ha spazzato via le polveri sottili. Il punto di forza e la vera novità di questo sito ben fatto e semplice da usare è il servizio di previsione quotidiana. Infatti è possibile dare un'occhiata a quale sarà la condizione dell'aria nei successivi 5 giorni per tutti gli 8.100 comuni italiani. Per i più interessati c'è anche una sezione del sito che mostra la situazione degli inquinanti anche per il resto d'Europa. C'è qualcosa di poco chiaro che non avete capito? Ecco bene, allora potete chiederlo all'esperto, perché c'è anche lui, si chiama Mario Cirillo e risponde alle domande degli utenti relative all'inquinamento atmosferico. Vi ripeto il nome del sito: www.lamiaaria.it, è appena nato ed è completamente gratuito. Fatene buon uso. Avete mai pensato che possa esistere un grande fratello dei volatili? Ebbene, esiste. Ci sono i protagonisti, gli esclusi, le telecamere, le stanze o in questo caso forse è meglio parlare di nidi. Manca solo il confessionale, ma vi assicuro che anche i battibecchi, e in questo reality è proprio il caso di dirlo, non mancano mai. Infatti sul sito www.birdcam.it, scritto birdcam.it, è possibile sbirciare veramente da vicino la vita di coppia di alcuni falchi pellegrini e anche la routine quotidiana e anche la schiusa delle uova. Proprio in questi giorni, se siete fortunati, potrete assistere in diretta alla nascita dei pulcini. È il sesto anno consecutivo che le telecamere di Birdcam consentono ai più curiosi di seguire le vicende di Alice e Virgilio, Aria e Vento, Felix e Aisha. Sono in totale 5 le coppie di falchetti romani, seguiti 24 ore su 24 dagli appassionati di tutto il mondo. Ovviamente, proprio come il Grande Fratello, questo format esiste anche in altri paesi. Se volete curiosare sul sito trovate sicuramente anche i link per osservare ad esempio la vita dei gufi texani, oppure mettere il naso nell'intimità domestica delle civette olandesi. E immagino che qui i più curiosi correranno al PC, potete sbirciare addirittura, i pinguini in Antartide. Aspettate, vi ripeto il sito www.birdcam.it. E se non ne avete ancora abbastanza e volete curiosare ancora un po' in rete, vi segnalo quest'altro sito www.evolutionmegalab.org, evolutionmegalab.org, un sito che dà la possibilità di collaborare e di aiutare l'Università di Londra nel censimento delle chiocciole di terra. Sì. Avete capito bene? I ricercatori britannici vi saranno grati se vorrete spendere un paio di ore nel vostro giardino cercando le lumachine, contandone le striature del guscio, facendo qualche foto e inviando tutte le informazioni che avete raccolto. Ecco, lo scopo della ricerca è accumulare il maggior numero possibile di dati sulle varie trasformazioni che questi molluschi terrestri diffusi in tutta Europa hanno subito negli anni. Il tutto al fine di comprendere nuovi aspetti dell'evoluzione degli esseri umani sulla Terra. Tra le cose che lo studio mira ad approfondire vi è anche la possibilità che la distribuzione dei colori delle conchiglie di queste chiocciole sia cambiata in seguito al riscaldamento climatico. Pertanto, i vostri dati saranno confrontati con quelli già presenti in un database storico e vi verrà mostrato se ci sono stati cambiamenti nella vostra area geografica. Il progetto è stato avviato ufficialmente il 30 marzo, durerà 6 mesi e sarà uno dei più grandi studi sull'evoluzione mai condotti al mondo. Quindi siete ancora ampiamente in tempo per partecipare. E chi l'avrebbe mai detto che si poteva osservare l'evoluzione con la E maiuscola anche sotto la siepe del giardino di casa? 6 miliardi, 760 milioni, 172.419 sono le persone presenti in questo momento, mentre vi sto parlando, sul nostro pianeta. Il contatore va avanti in maniera frenetica. Ora siamo già arrivati a 200 persone in più in soli 10 secondi. Ecco, questo contatore che ho davanti al mio computer in questo momento è sulla pagina principale del sito www.worldometers.info. World come mondo, O di Otranto, meters.info. Oltre al dato aggiornatissimo sulla popolazione mondiale in tempo reale, cioè nel momento preciso in cui aprite la pagina del sito, potete trovare altri parametri curiosi, come ad esempio quanti bambini sono nati in questo preciso istante e durante la giornata. Ad esempio, in questo momento sono 39.953.358. Ecco, non riesco nemmeno a leggere il numero esorbitante e in continuo movimento sul numero di sciacquoni scaricati oggi. Siamo nell'ordine dei 17 miliardi, più o meno. Ecco, io però su questo dato mantengo qualche riserva sull'attendibilità. Comunque, sicuramente vi interesserà di più sapere quanti sono i computer o le biciclette che sono state vendute durante l'anno in corso. Vabbè, insomma, curiosate e scegliete la statistica che più vi aggrada. Vi ripeto soltanto il nome del sito www.worldometers.info. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. La soluzione del quiz, ve lo ricordate? C'erano tre definizioni scientifiche, bisognava decidere quale di queste tre non era nata dalla letteratura scientifica. Erano ingegneria genetica, gravità zero e raggio laser. Ebbene, la risposta giusta è raggio laser. Ingegneria genetica appare la prima volta nel romanzo di fantascienza Dragon's Island dell'autore americano Jack Williamson. È un racconto del 1951, non credo sia stato tradotto in italiano, ma un esperto in ascolto magari ci confermi questa cosa con una mail. Invece gravità zero o 0G appare nel racconto Islands in the Sky del 1952 e l'autore è il grande Arthur C. Clarke. Altre cose, allora cambiamo argomento. La prossima settimana vi parleremo di come uno scimpanzé possa fare qualcosa di assolutamente strabiliante, però questo qualcosa va visto, non è semplice descriverlo a parole, ovvero si può fare, ma se si vuole restare a bocca aperta allora bisogna vedere. Noi abbiamo il video di questa esibizione eccezionale, è già sul nostro sito, vi ho detto in apertura appunto che vi avremo segnalato pagine, video e immagini sul nostro sito, quindi il nostro consiglio è andate a vederle, poi la volta prossima ne parliamo. Vi segnalo però che un commento autorevole al video lo trovate anche sul sito, questo per non darvi la sensazione che potreste vedere qualcosa di incomprensibile, quindi vi stiamo costringendo ad ascoltarci la prossima settimana. Cambio ancora argomento e vi dico, per una trasmissione di scienza settimanale è molto difficile fare informazione sugli aspetti scientifici di una vicenda così drammatica e travolgente come un terremoto. Fare informazioni dopo una valanga di ore di televisione, di radio, dopo migliaia di pagine di carta stampata, tutte ovviamente comprensibilmente segnate da un clima in cui si devono rappresentare emozioni forti, paure, disorientamenti, grandi incertezze. Cosa possiamo dirvi allora noi di Mebius sulla vicenda del gas radon e sulla possibilità che le apparecchiature che lo misurano possano essere usate per prevedere i terremoti? Bene, sulla base di molti anni di lavoro in questo campo della scienza, della sua comunicazione, quello che noi possiamo dirvi è che questa storia del radon è una storia semplice. Situazioni analoghe si hanno in molti altri fenomeni che riguardano la scienza e la sua osservazione del mondo. Nel campo delle patologie, ad esempio, vi sono degli indicatori che sono connessi al possibile manifestarsi di una malattia, ma non lo sono sempre. Capita spesso che valori altissimi di questi indicatori siano tipici di una persona che quella malattia non accuserà mai. Ci sono in tutt'altro campo dei segnali che arrivano dallo spazio, dall'universo che ci circonda e che ci parlano di alcuni fenomeni, per esempio la materia oscura, ne abbiamo parlato la scorsa settimana. Bene, questi segnali possono anche essere interpretati in tutt'altro modo. La scienza è attraversata da queste ambiguità e le emissioni di gas radon come fattore previsionale di terremoti appartengono a questa tipologia di fenomeni. Tutto qui, molte volte a forti emissioni non si è registrata nemmeno una scossa, non c'è altro da dire. Se poi ci mettiamo a discutere del fatto che un qualche meccanismo di allerta si potrebbe attivare, beh, questa è un'altra storia e su questo si può discutere, giustamente. C'è una mostra che circolerà nel nostro paese dedicata alle donne scienziate che hanno dei ruoli importanti nella gestione di questa grande impresa di ricerca che è l'LHC. È mia ospite Sara Sesti questa sera. Buonasera Sara Sesti. Buonasera. Insegnante di matematica, ricercatrice sulla storia della scienza e in particolare per quanto riguarda il contributo delle donne, delle scienziate a questa storia. Lei, fra l'altro, voglio ricordare, ha coordinato un gruppo di lavoro che ha lavorato intorno al Princeton della Bocconi e una decina di anni fa avete prodotto una grossa ricerca che poi si è anche tradotta a sua volta allora in una mostra. È stata la prima ricerca in Italia sul tema scienziate d'Occidente e voi affrontavate due secoli di storia. Poi lei ha anche ampliato il periodo storicamente in un testo che ha fatto in collaborazione con Liliana Moro e ricordo anche che questa vostra ricerca, che è stato un momento insomma fondamentale per quanto riguarda la storia delle donne scienziate, è anche alla base di un testo recente curato da Rita Levi Montalcini con Giuseppina Tripodi che è appena uscito, il titolo è Le due antenate. Ecco, Sara Sesti, iniziavo dicendo di questa mostra sulle donne dell'LHC e è qualcosa che ci può portare anche a riflessioni più ampie. Sì, certo. Intanto questa mostra ci ha informato che nel progetto LHC le donne sono il 25% dei ricercatori e le italiane una trentina. Quando ho visto questa mostra io l'ho collegata molto con la nostra, quella che lei nominava, Scienziate d'Occidente, due secoli di storia, perché anche noi trattavamo la presenza di gruppi di donne che hanno portato contributi collettivi a grandi progetti. Ecco, i grandi progetti. Perché ci stiamo concentrando su questi momenti in cui migliaia a volte di scienziati e scienziati si sono messi insieme, sono rari, insomma, l'LHC è uno di questi, ma... Uno di questi progetti è sicuramente il progetto Manhattan, il programma segreto diretto da Oppenheimer, che nella prima metà degli anni 40 ha portato all'ideazione e alla costruzione delle armi atomiche. Al progetto furono chiamati i migliori scienziati dell'epoca, ma tra di loro vi erano ben 85 ricercatrici. Io vorrei ricordarne almeno un paio. La prima è Maria Goeppermeier, la scienziata di origine polacca, che quando inizia il progetto Manhattan nel 1942 aveva già 38 anni, aveva ottenuto un dottorato in fisica teorica sotto la guida di 3 premi Nobel, tra cui Max Born. Ecco, la Goeppermeier partecipò solo alle prime fasi del progetto Manhattan, ma ottenne dei risultati che contribuirono a fornire la base teorica per la progettazione della bomba. Sì. Certo. Poi, quando ottenne la cattedra all'Università di Chicago, abbandonò il programma e continuò le sue ricerche teoriche. Certo, che le valse un bel il premio. Il Nobel per la fisica nel 63. La seconda che volevo nominare è Chen Shung-Wu. Che cosa c'entra col progetto Manhattan? Quando nell'impianto di Hanford nel 1944 il reattore per la produzione di plutonio si spense poche ore dopo essere stato avviato, il problema fu risolto da due giovanissime ricercatrici, Kay Wei e proprio Madame Wu. Però ci sono stati altri grandi progetti scientifici che hanno visto un ruolo delle donne. Sì, possiamo nominare il progetto ENIAC, il programma per la realizzazione di quello che allora fu definito il primo computer elettronico. Sì. Sarebbe meglio definirlo una macchina elettromeccanica perché funzionava ancora con relè e valvole. Certo, con valvole e relè. Però è stato il primo computer, di fatto, certo, il primo grande computer. E fu progettato per calcolare le traiettorie balistiche per il lancio dei proiettili di artiglieria durante la Seconda Guerra Mondiale. La sua costruzione è iniziata nel 43 e terminata nel 46. Era programmabile nel senso che poteva essere di volta in volta predisposto a svolgere diverse funzioni. Prima della realizzazione di ENIAC, il calcolo delle traiettorie balistiche era affidato a un'ottantina di donne di matematiche che svolgevano questo compito manualmente. Si preferiva affidare questo tipo di incarico al personale femminile per due motivi. Primo, perché allora, ma non mi sembra che oggi le cose siano cambiate di molto, si riteneva che le donne fossero più adatte degli uomini all'esecuzione di calcoli precisi e laboriosi, in quanto per natura sono più pazienti e diligenti. Ecco, cioè precisi e però lunghi, eh? E questa è la differenza, secondo me, che viene data a questo ruolo delle donne. Non sono precise, però qui ci troviamo anche di fronte a dei compiti che devono essere protrarsi nel tempo per giorni, e qui sembrerebbe che appunto gli uomini non sono capaci. Esatto, questo si dice, però secondo me il secondo motivo per cui questi incarichi venivano affidati alle donne era perché potevano essere pagate meno dei colleghi. Eccola lì, sì. Questa forse è una delle ragioni principali. Esatto, come adesso. Nell'autunno del 45, 6 delle 80 calcolatrici manuali furono scelte per essere addestrate come programmatrici dell'ENIAC. Furono davvero delle pioniere sia nell'ideare che nel realizzare i primi metodi di compilazione dei programmi. In pratica questo era il primo computer, e si trattò con questo lavoro di iniziare l'era della programmazione. In più, istruire ENIAC richiedeva delle procedure estenuanti, dovevano, sì, azionare fisicamente gli interruttori affinché una corretta sequenza di impulsi fosse immessa nella macchina, dovevano settare ogni singolo bit a 0-1 per comporre il codice che doveva essere eseguito, e tale sequenza doveva essere ripetuta ogni volta. E qui penso che sia importante ricordare che ENIAC era molto veloce, riusciva a fare in 30 secondi dei calcoli che allora richiedevano 12 ore, però era un oggetto sperimentale, quindi la sua programmazione effettivamente richiedeva giorni e giorni. Sa che la presenza di queste donne nel progetto fu ignorata per 50 anni e che il loro ruolo venne alla ribalta solo nel 96 grazie a un premio assegnato dall'associazione Women in Technology, che promuove le figure femminili che hanno dato un contributo all'innovazione industriale. 50 anni dopo. Mi pare che lei sta per parlarci di stelle. Perché gli ultimi due progetti che hanno visto addirittura all'azione dell'equipe formate soltanto da donne riguardano la realizzazione dei due più importanti cataloghi stellari dell'Ottocento. E anche in questo caso si trattava di un lavoro certosino che veniva affidato a queste dame, che venivano chiamate allora le dame calcolatrici, per i soliti motivi che abbiamo detto prima. Che però praticamente erano delle tecniche di laboratorio, cioè avevano ricevuto un'istruzione abbastanza precisa. Sì, certo, precisa. Per esempio, sì, a Parigi il centro di misura era diretto da Dorothea Klumke, un'astronoma e matematica abilissima. E anche qui è bene segnalare che si trattava di lavorare con decine di migliaia di punti, ognuno una singola stella, su centinaia e centinaia di lastre fotografiche. Per l'Italia partecipò al progetto la Specola Vaticana, che mise a disposizione tre suorine dell'Istituto Maria Bambina, che in 20 anni misurarono la grandezza e la posizione di più di 400.000 stelle. Negli Stati Uniti, invece, il programma di realizzare l'inventario di tutte le stelle partì nel 1890 e fu promosso dal professor Edward Pickering, il direttore dell'osservatorio di Harvard, che reclutò un gruppo, sempre formato da sole donne, convinto che la mente femminile fosse particolarmente adatta ai lavori ripetitivi e ai calcoli complicati. Questo gruppo fu soprannominato l'Harem di Pickering. Ecco. Sara Sesti, grazie per queste notizie. Grazie a lei e grazie a chi ci ha ascoltato. Buona serata. La mostra sulle scienziate italiane impegnate nell'LHC in questi giorni si trova a Roma, resterà nella capitale fino al 22 aprile e la potete vedere allo Schenker Cultural Club in Piazza di Spagna, e poi la mostra andrà a Bologna. Bene, questa è stata la nostra puntata per questa settimana. Buona serata a tutti e a tutte, e alla prossima con Mebius.